Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Fica de caco, pra mamãe, ai. Eu amaco, esse é gay. Deixa pra mamãe. Ele é o chuma, que se marca com uma cama, ele é. E ele é lamaco. Esse é o alofa, uai. É o fica de caco, pra mamãe, ai. E ele é lamaco. Yeah, I'm a... Thank you.

oggi il caldo arriva a temperature assurde, sudo, colto dall'afa giro per casa mezzo nudo. Che vuoi che sappia la gente di noi, resta un segreto che mantengo ormai da tempo al chiuso e m'asciugo. La casa è piena di sti dissetanti, in giro solo volti bianchi, ora più che mai sento quanto manchi. Intorno un vuoto che sta entrando, batte come un tango. Va bene così perché è da me che stai tornando. Dopo una notte simile a quella di ieri, dove tu non c'eri. Evito le storie che mi presentano troppi misteri. A volte pensi di far chissà che con simili cambiamenti. Più tenti e meno mi accontenti. Senza lei sono perso come il tempo custodito in un suono. E come si sa, per ogni ragazzo ci sono sette donne, ma di che età? Che tutti mi dicono dalle mene andrà in difficoltà. Ma funziona così, va bene così, finché me la prendo con comodo. Il modo di fare le cose che non tutti approvano. A più puntate di amici ne ho andate, serate di amate, ma l'unica è lei che mi fa estate. Oggi alla radio hanno ridetto sole, si pensa che sarà senza alcun dubbio luglio il migliore. Sarà che chiuse le scuole ci si perde in due ore, per ritrovarsi altrove nei primi d'ottobre con delle nuove. Yeah.